Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, una settimana piuttosto intensa, quella che si apre oggi in Europa con un paio di appuntamenti davvero importanti. Intanto dalle agenzie una battuta di Renzi che in queste ore incontra il cancelliere austriaco Werner Faymann, dice i prossimi mesi saranno decisivi per l'Europa, noi siamo per tenere i conti in ordine, per il rispetto di bilancio e per il futuro dei nostri figli e nipoti, ma anche per occuparci di più di crescita e investimenti. A proposito di crescita e investimenti, ormai è diventato il nuovo tormentone in attesa del piano Juncker. Bene, l'attesa svolta dell'UE dalle politiche di austerità, quelle per la crescita, potrebbe arrivare ormai prestissimo con due decisioni che la Commissione europea annuncerà. Da una parte potrebbe già farlo mercoledì all'Europarlamento a Strasburgo e venerdì a Bruxelles. Considerazione favorevole nel calcolo del deficit, della spesa per alcuni investimenti pubblici, la concessione di più tempo agli Stati membri, in particolare dunque a Italia e Francia, per rientrare nei parametri del patto di stabilità, mentre danno attuazione alle riforme strutturali delle loro economie. Il collegio dei commissari europei si riunisce a Strasburgo per varare la proposta sul piano di investimenti da 300 miliardi di euro in tre anni che il presidente della commissione Jean-Claude Juncker aveva promesso prima della sua elezione, ma anche per approvare le bozze di bilancio degli stati dell'eurozona. Il piano sarà presentato dallo stesso Juncker alla plenaria del Parlamento europeo, appunto mercoledì mattina, mentre i pareri della Commissione sulle leggi finanziarie nazionali, la discussione appunto i singoli casi di discussione potrebbero anche continuare eventualmente nella stessa giornata di mercoledì. E a proposito di calendario, eventi importanti, domani Papa Francesco sarà a Strasburgo alla sede del Parlamento europeo. Il presidente del Parlamento Martin Schulz aveva annunciato che il Papa aveva accolto l'invito rivoltogli già nell'ottobre del 2013. L'appuntamento, che peraltro cade nel corso del semestre di presidenza italiano, sarà un viaggio in giornata per il Papa alla sede del Parlamento europeo e di fatto rappresenta un ritorno, una visita vaticana di una, se vogliamo, abitudine che è stata aperta ormai parecchi anni fa, cioè 25 anni fa, da Karol Wojtyla. Lo possiamo sentire? Bon vœu de pasteur de l'Église universelle venu de l'Europe centrale. E chi connaît les aspirations de peuple. Ecco, era il 1988 quando Giovanni Paolo II entrò nell'aula del Parlamento di Strasburgo. Come avete sentito, si rivolse all'emiciclo in francese. Allora non c'era l'euro nel mercato unico. Papa Wojtyla si presentò come l'uomo che veniva dall'Europa centrale e dell'est, in un'Unione Europea che, come dire, sembra quasi strano a ricordarsi, ma era ancora un'Unione Europea a 12, un'Unione Europea in cui appunto i paesi dell'Europa centrale e dell'est non erano ancora presenti. Ora invece la Polonia, in particolare appunto di Wojtyla, svolge ben presente il suo ruolo all'interno di un'Unione Europea ormai raddoppiata abbondantemente. Allora, un'ultima notizia: l'UE plaude allo svolgimento nella calma delle elezioni presidenziali in Tunisia, una tappa ulteriore della transizione democratica del paese. Così una nota dell'altro rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini. L'UE sostiene gli sforzi del popolo tunisino, dice, ha dispiegato una missione di osservatori elettorali guidata dalla signora Agnès Uterbrock, membro del Parlamento europeo, che interverrà appunto domani in Parlamento per raccontare l'esito già definito positivo della tornata elettorale in Tunisia. E con questo direi che è tutto per questo primo appuntamento di settimana. Ci risentiamo domani alla stessa ora. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.